Tanti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. C'è una questione di enorme rilevanza dal punto di vista economico e sociale che sembra scomparsa dal dibattito pubblico, soprattutto a livello internazionale, è quella dei rapporti tra il nord e il sud del mondo, una questione rimossa a dispetto del fatto che nel mondo oggi sono circa 820 milioni le persone che soffrono la fame, stando all'ultimo rapporto sulla sicurezza alimentare della FAO. E se l'indice di sviluppo umano, almeno nella situazione precedente alla pandemia, aveva raggiunto livelli sempre più elevati nei paesi industrializzati, in Africa e nel sud-est asiatico assistiamo a un graduale, inesorabile peggioramento. Nel libro che Enrico Landoni ha scritto per Mimesis, dal titolo «Per non perdere l'umanità, una ricostruzione storica del rapporto Nord-Sud», si osserva come nei paesi in assoluto più poveri un bambino che nasce oggi abbia un'aspettativa di vita inferiore ai 50 anni. Enrico Landoni insegna storia contemporanea all'Università iCampus. Buonasera e benvenuto. Buonasera dottor Pesole e buonasera a tutti gli ascoltatori. La geografia dello sviluppo umano riproduce in tutto e per tutto lo schema ormai classico della separazione nord-sud, che si conferma un modello ancora valido per comprendere e analizzare le attuali dinamiche economiche, sociopolitiche e demografiche del pianeta all'interno di processi di lungo periodo. Questo paradigma, reso in apparenza obsoleto dalla globalizzazione economica e dallo sviluppo di alcuni grandi paesi del sud del mondo, resta dunque un'efficace chiave di lettura della realtà, di cui soltanto le lenti di ingrandimento del metodo storico e di una ricostruzione di ampio respiro possono restituire appieno e in modo comprensibile la complessità e la problematicità. A pesare è il debito contratto dai paesi poveri nei confronti di quelli ricchi e delle organizzazioni economiche internazionali e soprattutto il governo dei flussi migratori. La definizione dei nuovi assetti geopolitici del mondo, frutto della proiezione sullo scacchiere internazionale, del ruolo che ogni paese si candida a ricoprire, dipende molto infatti proprio da un'analisi approfondita, articolata e organica di questi temi, con particolare riguardo alla questione demografico-migratoria. Perché questa del rapporto tra nord e sud del mondo è una questione che sembra rimossa nel dibattito pubblico a suo avviso? Ma io credo fondamentalmente per tre ragioni. Primo, c'è una questione attinente alla politica estera, di cui non si parla più. In un mondo reso piatto forse dalla globalizzazione c'è una fuga dalla complessità, le questioni di politica estera sono molto complicate, molto complesse e la sirena della fuga dalla complessità è molto allettante. Vi è poi una questione molto attinente all'aspetto, se mi consente, pedagogico. Negli ultimi anni soprattutto la scuola italiana, ma non solo, ha fatto completamente strame della geografia. Cioè in un mondo, ripeto, reso piatto dalla globalizzazione si sono persi completamente i riferimenti spazio-temporali. Non si sa banalmente più dove si trovano dei luoghi nel mondo e si fa ancora più fatica, qui è l'ultima questione legata alla storia, a contestualizzare, a problematizzare i fatti. Nel suo libro lei parla della necessità di un nuovo dialogo tra nord e sud, ma su quali basi dovrebbe partire? Beh, insomma, parto dalla parte più facile del discorso. Intanto bisognerebbe avere una classe dirigente all'altezza. Francamente non se ne vede in circolazione, una risposta probabilmente molto facile ma che credo sia inevitabile. Vi è poi un'altra ragione, cioè la rimozione di ciò che la storia ci ha insegnato e portato. Io lo scrivo nel libro, credo che si debba ripartire da alcune interessanti riflessioni di, per esempio, Robert McNamara, presidente della Banca Mondiale, personaggio tra l'altro molto discusso e contraddittorio, che però ci ha lasciato in eredità elementi molto interessanti. E poi il focus credo debba essere riservato alla Commissione Brandt, Willy Brandt, commissione nominata dallo stesso presidente della Banca Mondiale, che mise insieme un panel veramente eccellente. Siamo a cavallo tra gli anni 70 e 80, in un momento dirimente per le sorti del mondo, siamo appena prima, diciamo, della comparsa, dell'emergere dell'ondata neoliberista, il fenomeno Thatcher, il fenomeno Reagan, ma in questa commissione vengono prodotti degli studi, delle analisi, a mio avviso ancora di straordinaria attualità, una su tutte. Tema banale, siamo nell'era della globalizzazione, ma in questa commissione viene posta per la prima volta in modo chiaro la questione della interdipendenza, cioè che cosa significhi realmente per un cittadino dell'Europa, della piccola Italia, far parte della comunità mondiale, per esempio. E l'altra questione che sfioro solamente è evidentemente il protagonismo dell'Europa. Mi consente di citare una persona in particolare che su questo fronte, sul tema della cooperazione internazionale, sul ruolo dell'Europa ha lavorato, è stato Mario Pedini. Mario Pedini, l'uomo, diciamo, di Moro nell'ambito della cooperazione internazionale, che si occupò per esempio del trattato di associazione tra la comunità economica europea e i paesi africani e del Malgascio, e che lavorò per, diciamo, una grande proiezione esterna mediterranea e africana dell'Italia e dell'Europa su questo fronte, ma questi temi ormai sono stati completamente espunti dall'agenda internazionale. Poi c'è la questione enorme, rilevantissima, del debito che i paesi più poveri hanno contratto rispetto ai paesi più ricchi. Quali sono le ricette possibili per uscirne? Possa ripartire, sia necessario ripartire dal lavoro che fece Craxi, per esempio, come rappresentante personale di Pérez de Cuellar alla fine degli anni Ottanta per la questione del debito, e il suo gruppo di lavoro, tra i quali vanno ricordati Francesco Forte, tra gli altri, realizzò veramente un'analisi molto interessante che contiene degli spunti di assoluta attualità. Per esempio il rischio enorme, no, del fenomeno migratorio, cioè il problema dei flussi in qualche modo incontrollati, in mancanza di una considerazione di questo tema, e anche la questione appunto della interdipendenza, cioè del problema della interdipendenza tra, diciamo, paesi ricchi e paesi poveri, di cui naturalmente non si parla più assolutamente, salvo evocare in alcune circostanze, penso l'anno scorso al tema della Francia, alla questione, diciamo, neocoloniale, le accuse rivolte alla Francia con la sua moneta, no, il franco CAF, di in qualche modo esercitare un dominio neocoloniale su alcune regioni dell'Africa. Il problema è che di questi temi, dell'Africa in particolare, ormai nessuno più si occupa e nessuno si interessa. Infine c'è il problema del governo dei flussi migratori, altra questione non da poco, non crede? Certo, non mi sottraggo al fatto a questo tema, lo evocavo citando Craxi perché nel suo rapporto, nel suo, diciamo, peregrinare in giro per il mondo come rappresentante personale di Pérez de Cuellar, trattò di temi, guardi, molto pragmatici, altro che retorica o questioni, diciamo, di natura squisitamente umanitaria. Stiamo parlando anche di questioni economiche, di interessi molto concreti, e a mio avviso bisognerebbe ripartire da questo perfetto mix di, come dire, afflato anche umanitario di questi grandi personaggi che sono naturalmente scomparsi anche per ragioni anagrafiche, non solo, e anche l'aspetto pragmatico della loro missione, della loro attività. Bene, la ringraziamo molto, professor Landoni, per essere stato con noi. Io ringrazio Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia, e a voi, cari ascoltatori, buona serata a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille, arrivederci.